perfetto giorno di Alessio Maurizi. Libia, sì del governo di Tripoli al cessate il fuoco proposto da Erdogan e Putin. Caso Gregoretti, la maggioranza chiede lo slittamento del voto sul processo a Salvini dopo il 26 gennaio. Il leader della Lega attacca, sono senza dignità. Lavoro, a novembre l'occupazione segna un massimo storico al 59,4%, aumentano i contratti indeterminati e gli occupati tra i giovani con 25-34 anni. Bari, le mani dei clan sul gioco d'azzardo, 36 persone arrestate gestivano illegalmente l'installazione delle macchinette. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Nei prossimi 15 minuti sentirete la sintesi delle principali notizie, poi dalle 13.15 i nostri approfondimenti. Cominciamo con la questione Libia. Doveva ieri essere la giornata del successo della diplomazia italiana con il doppio incontro tra il Presidente del Consiglio Conte e i due leader libici Haftar e Sarraj a poche ore di distanza. È finita invece, come sapete, con un pasticcio, Sarraj che ha cancellato la visita e adesso l'Italia rischia di uscire ancora di più in modo marginale dalla gestione della crisi. Proprio oggi invece salgono, ed è comunque una buona notizia, le quotazioni di una mediazione verso percorso di pace tra la Russia e la Turchia. Sembra dare i primi frutti l'intesa raggiunta sulla Libia tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan. Il governo di Tripoli questa mattina si è detto favorevole al cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di domenica proposto dai due leader. La parola adesso passa al generale Haftar, le cui milizie nelle ultime ore non hanno comunque interrotto la loro avanzata. Tagliata fuori dalla mossa di Russia e Turchia, dietro la quale alcuni vedono l'obiettivo di spartirsi il paese, l'Italia intanto prova a recuperare il terreno perso sul fronte diplomatico, anche con qualche passo falso. Ieri non è andato in porto il tentativo del premier Conte di incontrare a Roma sia il generale Haftar sia il premier Sarraj. Quest'ultimo ha deciso di non fare tappa nella capitale dopo aver saputo della presenza del suo oppositore. Da Algeri intanto anche il ministro degli esteri Di Maio oggi concorda sulla necessità di arrivare quanto prima ad un cessate il fuoco. È il momento di mettere tutte le persone intorno a un tavolo, tutti i paesi intorno a un tavolo e trovare la soluzione che ci consente di garantire la pace in questa regione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sull'altro versante, quello iraniano, gli Stati Uniti sono pronti a impegnarsi senza precondizioni in seri negoziati con l'Iran, lo ha affermato oggi, secondo quanto riporta la BBC Online, l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite in una lettera inviata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, questo dopo che il presidente Trump aveva già escluso nuove ritorsioni contro Teheran dopo l'attacco alle basi americane. E dei rischi invece di una guerra in Iran ha parlato oggi anche Papa Francesco nel tradizionale incontro con il corpo diplomatico. Dalla Libia alla Terra Santa, dalla Siria allo Yemen, ha ricordato i diversi focolai di guerra il Papa nel tradizionale incontro con il corpo diplomatico. Il nuovo anno, ha ammesso Francesco, è stato segnato da un inasprirsi di tensioni e violenze, come quelle tra Iran e Stati Uniti. Rischiano anzitutto di mettere a dura prova il lento processo di ricostruzione dell'Iraq, nonché di creare le basi di un conflitto di più vasta scala che tutti vorremmo poter scongiurare. Rinnovo dunque il mio appello perché tutte le parti interessate evitino un innalzamento dello scontro. Guerre dalle quali spesso scappano migliaia di persone che rischiano la vita in viaggi pericolosi, facendo del Mediterraneo, ha ricordato il Papa, un grande cimitero. È sempre più urgente, perciò, che tutti gli stati si facciano carico della responsabilità di trovare soluzioni durature. Nel discorso anche la piaga della pedofilia, con il rinnovato impegno della Santa Sede affinché si faccia luce sugli abusi compiuti e si assicuri la protezione dei minori anche attraverso la collaborazione con le autorità civili. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora con la politica parliamo dell'Italia con il caso Salvini-Gregoretti, perché oggi è tornata a riunirsi la giunta per le immunità del Senato, che deve decidere se concedere il via al processo per il leader della Lega e ex ministro dell'interno Matteo Salvini, come chiesto dal Tribunale dei Ministri di Catania. La maggioranza però a sorpresa ha proposto di rinviare la data del voto. 5 Stelle, PD, Italia Viva e LeU chiedono il rinvio del voto della Giunta per le immunità del Senato, che deve decidere se dare l'ok al processo per Matteo Salvini. L'ex titolare del Viminale è accusato per la seconda volta dal Tribunale dei Ministri di Catania di sequestro di persona per aver ritardato a luglio lo sbarco dei 131 migranti a bordo della Gregoretti. La data è fissata per il 20 gennaio. La maggioranza vuole lo slittamento a dopo le elezioni regionali del 26, così Davide Faraone di Italia Viva ad Agorà. Tutti i gruppi presenti, quindi compresa Lega, Forza Italia, Fratelli Italia, abbiamo deciso di interrompere l'attività nella settimana delle elezioni regionali Calabria ed Emilia Romagna. Sono senza dignità, replica l'ex ministro dell'Interno, mentre il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, chiede di respingere l'autorizzazione a procedere, come accaduto a marzo sul caso Diciotti, la nave bloccata ad agosto 2018 al porto di Catania. Il premier ha avuto un ruolo nella vicenda, tutti sapevano le motivazioni del forzista Gasparri. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto slitta l'appuntamento del deposito in Cassazione del quesito referendario contro il taglio dei parlamentari, perché al momento mancano tutte le 64 firme dei senatori che sono invece necessarie per avviare il referendum. Andrea Cangini di Forza Italia assicura che sarà preso un nuovo appuntamento entro il 12 gennaio, termine ultimo. In quattro, ha detto Cangini, hanno ritirato le firme, ma altri si stanno aggiungendo, per cui per correttezza abbiamo chiesto alla Cassazione uno slittamento. E ora parliamo di economia con i dati positivi che arrivano dall'occupazione. Occupazione ai massimi storici in Italia, a dirlo è l'Istat, che a novembre 2019, dopo l'incremento occupazionale del primo semestre dell'anno e l'andamento altalenante del terzo trimestre, rileva una conferma del trend di crescita, con l'aumento del numero di occupati di 41.000 unità rispetto al mese precedente. È un tasso di occupazione che sale al 59,4%. L'aumento congiunturale dell'occupazione, spiega l'istituto, è trainato dai dipendenti permanenti e da una rilevante crescita del tasso di occupazione dei giovani tra i 25 e i 34 anni, mentre calano i lavoratori a termine e gli indipendenti. In aumento la componente femminile, più 0,3%, pari a più 35.000 unità. Contestualmente si registra una lieve crescita del numero di disoccupati e un calo dell'inattività, che scende ai valori minimi storici. Il tasso di disoccupazione risulta comunque stabile al 9,7%. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca adesso: i clan della criminalità barese avevano messo le mani sul settore dei giochi d'azzardo, lo ha accertato la Guardia di Finanza al termine di un'indagine che ha poi portato all'emissione da parte del giudice di 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Avevano creato un monopolio esclusivo sulla gestione e distribuzione delle apparecchiature da gioco autorizzate come videopoker e slot machine nei locali pubblici di Bari e provincia. Gli storici clan della criminalità barese Capriati, Anemolo e Strisciuglio, game over per 36 di loro, con le ordinanze di custodia cautelare emesse al termine dell'operazione Gaming Machine, coordinata dalla DDA di Bari e portata a termine dagli uomini della Guardia di Finanza, che stanno eseguendo sequestri di beni per oltre 7 milioni e mezzo di euro. In carcere anche un imprenditore barese, Baldassare D'Ambrogio, che usufruendo della fama criminale di uno zio pregiudicato era socio di fatto di imprese sale giochi a Bari e provincia. Indagate anche altre 49 persone. I reati contestati sono di illecita concorrenza con violenza e minaccia, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, riciclaggio, usura, contrabbando di sigarette e detenzione di abusiva di armi clandestine. L'ordinanza d'arresto è stata emessa dal GIP del Tribunale di Bari, Giovanni Battista. Grande compiacimento per il blitz condotto all'alba di oggi è stato espresso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. Per la Banca Popolare di Bari, sottoposta ad amministrazione straordinaria in vista di una ristrutturazione e di un rilancio, andranno individuate forme di ristoro per i casi di comportamenti scorretti registrati in occasione degli ultimi aumenti di capitale. Lo ha affermato oggi il vice direttore della Banca d'Italia, Alessandra Perazzelli, in una audizione alla Camera. Domenica prossima iniziano ufficialmente gli eventi di Parma, capitale italiana della cultura 2020, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Daniele Biacchessi. Accadeva nel 2010. L'allora ministro dei beni e delle attività culturali Sandro Bondi si lamentava dei tagli alla cultura con il suo collega Giulio Tremonti alla guida del Dicastero all'economia, e Tremonti gli rispose con una frase infelice: non è che la gente la cultura se la mangia. 10 anni dopo, con la cultura il nostro paese mangia, e molto. I dati di Matera 2019 Open Future sono entusiasmanti: 6.000 cittadini, 1.500 volontari impegnati nella manifestazione, 940 eventi culturali organizzati in 325 luoghi, una regione come la Basilicata, per troppo tempo dimenticata, ora è meta di turismo di massa internazionale. E da sabato 11 gennaio prende forma Parma, capitale italiana della cultura 2020. In particolare, domenica 12 al Teatro Regio è prevista la cerimonia istituzionale con ospite d'onore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'anno di Parma, capitale della cultura, coinvolge anche le città di Piacenza e Reggio Emilia. Oltre 500 eventi tra mostre, spettacoli, performance faranno scoprire tramite il veicolo della cultura la bellezza del territorio e la straordinaria qualità dell'enogastronomia. Il progetto di Parma va ben più in là dei confini nazionali ed è con questi occhi che si deve guardare lo sviluppo del nostro paese. Sport, calcio, Torino-Genoa questa sera alle 21.15 apre il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. È stato invece presentato oggi nella sede della Lega Calcio a Milano il nuovo album Panini delle figurine dei calciatori e delle calciatrici del football italiano. Dario Ricci ha intervistato Antonio Allegra, direttore mercato Italia Panini. Siamo alla 59esima edizione della collezione ufficiale di figurine sul calcio italiano e io la definisco la collezione più ricca della storia. Sono 832 figurine, ma in realtà ci arriva a più di 1100 soggetti diversi effigiati in figurina. Un album ricchissimo, tante sezioni speciali, tutto il meglio del calcio italiano. Particolare spazio al calcio femminile, come lo racconterà quest'album? Panini, come sapete, già da anni ha investito sul calcio femminile, quindi la presenza delle squadre di Serie A nell'album è comunque già consolidata. Quest'anno l'omaggio è ulteriore, fatto insieme a calciatori, nel senso che nel top 11 eletto dalle calciatrici stesse, dai C, e oltre ad esserci appunto gli 11 maschietti, ci sono anche le 11 ragazze, e quindi in questo senso ci sono le 11 figurine appunto raffiguranti le migliori calciatrici, quindi tante donne, come è giusto che sia. Cosa ci aspetta magari tra qui a un anno? So che già avete delle sorprese in cantiere. Ma diciamo che in realtà c'è un appuntamento molto più vicino, non è un mistero che a giugno a Roma partiranno gli europei di calcio, UEFA Euro 2020, e quindi posso già confermare che Panini realizzerà le sue collezioni anche su questa importante manifestazione. E poi dall'autunno entriamo appunto nel nostro 60esimo, e quindi ci saranno sicuramente le collezioni consolidate, ma anche tante iniziative speciali. 13:13 minuti, effetto giorno, fa una pausa, torniamo tra poco dopo le informazioni sul traffico. Cercheremo di fare un po' di chiarezza sulla qualità dell'occupazione che si è creata in Italia. Il dato è positivo, lo abbiamo appena sentito nei titoli del giornale radio. E poi il caso dei vigili urbani di Roma senza divisa, arrivata la strigliata del ministro dell'Interno Lamorgese, che invece li vuole in uniforme. Poi cercheremo di fare un po' di chiarezza sugli incendi in Australia. 349-238-6666 per i vostri messaggi, e per commentare la giornata c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno. A tra poco. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo. Alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. Effetto giorno. Libia, sì del governo di Tripoli al cessate il fuoco proposto da Erdogan e Putin. Caso Gregoretti, la maggioranza chiede lo slittamento del voto sul processo a Salvini. Leader della Lega attacca, sono senza dignità. Lavoro, a novembre l'occupazione segna un massimo storico al 59,4%. Aumentano i contratti indeterminati e gli occupati tra i giovani con 25-34 anni. Roma, vigili urbani in jeans e felpa. Il ministro dell'interno Lamorgese chiede il rispetto dell'obbligo di uniforme, ma per i sindacati le divise sono vecchie e gli spogliatoi scomodi. Da oggi al cinema Hammamet, il film su Bettino Craxi. Cosa aspettarsi dal film di Gianni Amelio? Ve lo raccontiamo tra poco. Minuti, di nuovo buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Come annunciato, cerchiamo di fare un po' di chiarezza e fare un po' di luce su questi dati Istat sulla occupazione in Italia, che a prima vista sembrano dati abbastanza positivi, chiaroscuro, perché c'è un aumento della disoccupazione tra i più giovani, tra i 15 e i 24 anni, ma complessivamente aumenta invece il tasso di occupazione, quello di inattività cala. Di conseguenza abbiamo con noi Chiara Mussida, che è docente di economia del lavoro all'Università Cattolica di Milano per la sede di Piacenza. Di la verità, benvenuta. Benvenuta, buongiorno. Allora, professoressa, il tasso di occupazione, dicevamo, si conferma in crescita, una crescita che va avanti da un po' di tempo. Adesso si tocca un massimo storico del 59,4%. Cala il tasso di inattività al 34%. Facciamo un po' di chiarezza anche su queste due categorie. Gli inattivi sono quelli, sappiamo, che non lavorano né cercano un lavoro, mentre è stabile il tasso di disoccupazione. Io le chiedo quale quadro emerge da questi dati secondo il suo punto di vista, ma anche qual è il dato secondo lei più importante, più da tenere in considerazione tra tutti questi. Allora, l'immagine è sicuramente positiva. Stiamo parlando ovviamente del dato dell'ultimo mese disponibile, dati mensili novembre 2019. Ovviamente non ho segnali, come ha evidenziato lei, sono positivi. Sia rispetto al mese precedente, quindi dal punto di vista congiunturale, sia dal punto di vista tendenziale, ovvero un anno prima, cioè novembre 2018. I segnali più positivi sono, come sottolineato, sia l'aumento e la riduzione delle statistiche che ha indicato lei, ma soprattutto è interessante andare a vedere le sottocategorie interessate da queste modifiche. Per esempio, gli occupati aumentano i posti a tempo indeterminato, quando invece una delle problematiche maggiori era stata la crescita del tempo determinato. Quindi ci sono più lavoratori permanenti e meno lavoratori a termine. Quindi si è stata anche di una qualità positiva dell'occupazione in aumento. Sì. Assolutamente sì, e si riducono gli autonomi, che sappiamo sono stati sempre un po' più svantaggiati. Mi dica. E come si spiega il fatto invece che la disoccupazione rimanga stabile al 9,7% invece scendano gli inattivi? Scendono gli inattivi perché probabilmente, da quello che ci dicono le statistiche, sembra che le donne, che prima erano inattive, abbandonino, le donne così come i giovani, ma non in una fascia d'età specifica, che sono un po' più maturi, 25-34, si sono spostati dall'inattività all'occupazione, senza toccare o toccare in misura marginale la disoccupazione. È stato questo. Cioè, da non cercare un lavoro, nemmeno si è passati ad averlo un lavoro. Esatto. Questo potrebbe essere un Esatto. Comunque una maggiore motivazione, perché anche i giovani e le donne erano anche quelli più scoraggiati. Comunque, esatto, un segnale di incoraggiamento che dà coraggio. Segnale, anche. Esatto, bravissimo, è un segnale, perché ovviamente sappiamo che dobbiamo ancora uscire completamente dalla crisi, non dobbiamo farci abbagliare da questi dati. Però sono 3-4 punti sì. positivi tutti assieme. A questo proposito le voglio chiedere proprio questo. Adesso con un tasso di disoccupazione al 9,7%, l'Italia è stabilmente sotto il 10%, si avvicina a paesi come la Francia che l'hanno circa all'8,5%, siamo ancora lontani da paesi come la Germania che hanno un tasso molto molto più basso di disoccupazione. Cosa fare per risalire invece ulteriormente? Per ridurre la disoccupazione, quindi. Sì. Per ridurre la disoccupazione occorrerebbe aumentare, secondo me, iniziative sia di formazione e per particolari fasce d'età, soprattutto per i disoccupati dai 50 in su, che magari hanno perso un'occupazione, magari hanno obsolescenza nelle conoscenze, nella formazione, quindi sarebbe necessario un maggiore investimento nell'occupazione, perché proprio questi ultra 50 anni stanno cercando di trainare l'occupazione. Mm-hmm. La formazione poi è importante anche e soprattutto perché spesso i disoccupati non sono solo disoccupati di breve periodo creati dalla crisi, ma sono anche disoccupati di lunga durata, quindi magari sono stati lontani da parecchio tempo nel mercato, cioè diciamo non dal mercato del lavoro ma dall'occupazione. Un'ultima cosa, professoressa Mussida, le chiedo a proposito del dato femminile che è particolarmente positivo, c'è una spiegazione secondo lei, ci sono dei motivi per cui c'è stata questa risalita nell'occupazione femminile? Sì, secondo me sì, perché le donne sono sempre più istruite, partecipano maggiormente all'istruzione, sono dati che si stanno accumulando già dai primi anni 2000 e i risultati sappiamo arrivano con ritardo e poi sono stati un po' ostacolati diciamo dalla crisi. È un segnale positivo e poi anche magari di una maggiore riconciliazione, una conciliazione e riconciliazione dei ruoli. Poi occorre, infatti anche quando si va a conferma di quello che insomma, di queste ipotesi che sto facendo e quando appunto si va a guardare l'occupazione, si tratta per lo più di donne che hanno un livello di istruzione elevato, c'è cioè una selezione positiva di questo. Quindi benissimo. Per renderlo più stabile occorrerebbe ancora maggiore istruzione e d'altro lato però creare una rete insomma di possibilità e di opportunità per conciliare lavoro di cura diciamo da occupazione ecco. Comunque grazie intanto Chiara Mussida, docente di economia del lavoro all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Comunque questo incremento dell'occupazione femminile lo prendiamo come un dato particolarmente positivo perché sembra avere, stando anche all'analisi che faceva la dottoressa Mussida, una caratteristica strutturale, cioè destinata a permanere. E invece quando sono le 13:23 minuti, come detto nei titoli, vi portiamo alla scoperta del film Hammamet, il film di Gianni Amelio dedicato agli ultimi giorni di vita di Bettino Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino. Marta Cagnola. La storia degli ultimi giorni di Bettino Craxi, i giorni di Hammamet, nel film di Gianni Amelio, da oggi al cinema. I denari per la politica sono come le armi per la guerra. Ma in Italia le cose stanno cambiando, il peggio alle spalle. Alle spalle di chi? A interpretare Craxi tra vicende reali e personaggi immaginari, un impressionante Pierfrancesco Favino. Un lavoro profondo, al di là del trucco. Abbiamo lavorato insieme perché il trucco fosse la chiave attraverso la quale ci si potesse scordare del trucco. Mi ricordo che in queste 5 ore e mezza quotidiane, quando io mettevo le sopracciglia e poi mettevo gli occhiali, ecco, quello era il momento in cui, come nel teatro no giapponese, si attraversa il ponte verso l'oblio di sé, come insomma, dicevano i maestri in accademia. La maschera in realtà è quello che ti consente molto spesso un contatto con qualche cosa di molto più intimo che hai a volte paura di toccare. La decisione di raccontare il punto di vista di Bettino Craxi potrà suscitare polemiche, ma non è un film contro Mani Pulite, sostiene con forza il regista in conferenza stampa. Io rappresento, io racconto, io non sono il personaggio. E Favino spiega, ognuno farà le sue riflessioni, ma certo i politici di un tempo erano un'altra cosa. Io parlo della mia sensazione, io mi ricordo che si vedeva al telegiornale, si leggeva nei giornali e avevo la netta sensazione che i miei genitori avessero una grande stima delle persone che occupavano quel ruolo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vigili urbani in jeans e felpa, vestiti insomma in maniera casual, accade a Roma, almeno a quello che ha detto anche ieri il ministro dell'interno Lamorgese, che ha chiesto uno stop a questa pratica di uso corrente. Vi fermereste all'alt di una persona in borghese, magari con una pettorina che sembra un ausiliare? Prendereste sul serio una persona appunto con i capelli sciolti e magari appunto un abbigliamento casual, ma che indossa solo una pettorina che non rende completamente riconoscibile il vigile urbano? Probabilmente qualche problema i romani ce lo hanno, come se non bastasse in una città già abbastanza caotica dal punto di vista del traffico. Ma è davvero così? Perché i vigili urbani hanno una loro teoria da questo punto di vista. È con noi Stefano Giannini, segretario per Roma del SULPL, il sindacato unitario lavoratori della polizia locale. Benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, intanto, siccome questa è un'annosa questione, io lo voglio chiedere anche a lei, prima di tutto con grande franchezza. È vero che alcuni colleghi, molti colleghi, spesso e volentieri, per motivi che adesso cercheremo anche di capire, utilizzano questa, chiamiamola divisa informale, ma che divisa non è, cioè abiti borghesi? Allora, questi abiti borghesi di solito che i cittadini possono vedere in giro sono quelli che praticamente hanno poi addosso il fratino giallo, diciamo, con scritto Polizia Roma Capitale. E questi sono comunque dei mezzi che ci dà l'amministrazione. In via prioritaria questi mezzi li dà ai colleghi che sono stati assunti da pochissimo tempo. Mm-hmm. E quindi l'amministrazione ha scelto, a nostro parere anche quasi giustamente, di preferire il vigile in strada rispetto al vigile vestito in strada, perché sono due strade completamente parallele ma che non si incontrano. Perché noi, per c'è un problema di approvvigionamento vestiti, delle divise. Noi per essere vestiti abbiamo necessità di fare dei bandi di natura europea. Sì, perché non è che stiamo vestendo a Roma tre persone, stiamo vestendo 300 persone alla volta. Certo. I bandi non possono avere, cioè la strada di Roma non può aspettare i tempi di un bando europeo. L'amministrazione ha scelto questo, che sia sicuramente opinabile, siamo tutti d'accordo. Però tra un vigile in strada e un vigile in ufficio in attesa della divisa, anche noi avremmo... Ma riguarda solo i neoassunti, oppure perché l'articolo, per esempio, del Messaggero di oggi, che è firmato da giornalisti romani, sicuramente meglio informati, sostengono che invece capiti di vedere in giro per Roma anche vigili di una certa età, anche oltre i 50 anni. Forse il giornalista sia un po' confuso, perché questo concorso che è andato praticamente in assunzione, sarà un concorso che è stato fatto 10 anni fa, quindi se si riferisce a persone di 52 anni, come nell'articolo viene citato. Cioè sono neoassunti ma hanno 50 anni. Avevano 42 anni quando hanno partecipato al concorso, poverini loro. Anzi, sarebbe da chiedersi perché sono stati fermi per 10 anni. Ma i sindacati, diciamo, chiedono, sollecitano l'approvvigionamento di queste divise? Guardi, cioè lei ritiene normale che un vigile urbano vada in giro così? No, noi non lo riteniamo normale, però questa purtroppo è figlia di una decisione a livello nazionale. Il nostro corpo, il corpo della Polizia Municipale in tutta Italia, è equiparato più a degli impiegati amministrativi che a degli operatori di polizia. E noi siamo purtroppo, paghiamo queste scelte. Siamo in giro con i gilet perché non siamo, l'amministrazione nazionale non ha mai deciso che siamo, se siamo forze di polizia o se siamo impiegati comunali. Però si questo, mi scusi, ma credo che... Abbiamo dei bandi da rispettare come degli impiegati comunali. Credo che, credo che per le divise, anzi sicuramente ci sono i bandi anche per le divise dell'esercito, delle altre forze dell'ordine, sono bandi che avranno le priorità diverse, però insomma... Esatto, la domanda però che alcuni ascoltatori già fanno al 3492386666, in particolare vi invito a scrivere se siete romani, perché sicuramente avete maggiore, come dire, diritto, ma anche... diciamo una caratura di informazione maggiore su Roma. Perché non lavorano come tutti gli altri vigili d'Italia? Perché questo problema non è che ce l'avete soltanto a Roma, cioè lei se l'è posta la questione del perché proprio a Roma succede questo, cioè è un problema perché di cattiva amministrazione? Perché purtroppo sono, come dicevo prima, sono dei binari paralleli. Le politiche assunzionali hanno viaggiato su un binario rispetto alle politiche di gestione del personale. Noi abbiamo, per esempio, se pare una cosa normale, dei colleghi che si devono occupare della scrittura di bandi per l'acquisto e l'approvvigionamento di mezzi, mentre altre strutture ministeriali hanno impiegati amministrativi che si occupano di questo. Questo significa sottrarre risorse al territorio e destinarle a ufficio a scrivere bandi. poi è semplicemente allucinante per noi. Senta, giusto per chiuderla, perché vedo che i messaggi arrivano e ci sollecitano a incalzarla un po' da questo punto di vista. Lei esclude, sì, ci vorrebbe molto più tempo forse per parlarne, per quanto poi diciamo l'argomento sia esclusivamente romano, mi dispiace sottolinearlo ancora una volta da questo punto di vista. Lei esclude quindi che ci siano vigili in giro per Roma che non portano la divisa e che non sono dei neoassunti, cioè che sono assunti, no, la divisa no, ce l'hanno, ma non la usano perché non gli va di usarla. Tra queste persone, per esempio, sono delle colleghe che rientrano dalla maternità, che hanno effettuato un cambio di taglia, come dice anche l'articolo del giornale, e sinceramente non mi sembra di dargli di portarli la croce addosso. Beh, no, certo, se non c'entrano dentro la divisa dovrebbero averne un'altra. Perché hanno avuto una maternità oppure hanno avuto una malattia che li ha portati a ingrassare o a dimagrire. Questo non ce lo dimentichiamo mai. Va bene, grazie per ora al segretario del sindacato degli agenti di polizia locale, grazie per essere stato con noi, buona giornata. E aspettavo la base, ma la base non c'è perché siamo in chiusura naturalmente, 13.30, anzi siamo anche un po' lunghi sulle informazioni di borsa, torniamo tra poco, 349-238-6666. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. A casa Rovazzi tutti super connessi con la superfibra Wind. Lo sentite? Questo rumore è Paolo che scarica un film in un attimo. Questo è Dani che gioca ai videogame senza sosta. E questa è Marta, felice perché si scarica un brano dietro l'altro. Scegli la superfibra di Wind a €25,99 al mese con il migliore download di sempre. Scade il 26 gennaio. Verifica copertura, limitazioni e condizioni su wind.it. Fabio, veloce! Mi sa che la superfibra Wind ci è sfuggita di mano. Vai nei negozi Wind o chiama il 159. Benvenuti nel simulatore di viaggio F24. Elaborazione dello scenario desiderato. Per fortuna il futuro è più avventuroso di come lo avevano disegnato. Range Rover Velar, oggi tua da €550 al mese con Land Rover Leasing, anche per privati. TAN 395, TAG 465, salva approvazione della banca, info su landrover.it. Da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri, come smartphone Huawei P30 Lite New Edition 128 giga a soli €349. MediaWorld, fatto apposta per me. Fino al 19 gennaio. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Pubblicità. Valorizza i tuoi risparmi con Chebanca. Con conto deposito hai l'1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata 6 mesi entro il 29 febbraio 2020. Interessi in anticipo. Fogli informativi su chebanca.it. Chebanca. Gruppo Mediobanca. Effetto giorno. Libia sfida il governo di Tripoli al cessate il fuoco proposto da Erdogan e Putin. Caso Gregoretti, la maggioranza chiede lo slittamento del voto sul processo a Salvini dopo il 26 gennaio. Il leader della Lega attacca, sono senza dignità. Lavoro a novembre, l'occupazione segna un massimo storico al 59,4%, aumentano i contratti indeterminati e i giovani con 25-34 anni. L'Australia continua a lottare contro l'emergenza incendi e i rischi sono in aumento, avvertono le autorità in vista di un nuovo picco di calore. Tutto quello che c'è da sapere su questi incendi tra poco con il ricercatore Giorgio Vacchiano. Da oggi al cinema Hamma Metti il film su Bettino Craxi. Pierfrancesco Favino interpreta gli ultimi giorni del leader socialista. Nuovo buongiorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora, i vostri messaggi al 349-238-6666 o anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, anche su Twitter, sul mio account personale, @AleMaurizi. Allora, ce ne sono un bel po', soprattutto sulla questione dei vigili urbani di Roma, senza divisa, secondo il ministro dell'Interno Lamorgese, che ieri li ha strigliati un po'. Scrive Roberto, ma sono tenuto a fermarmi anche se il vigile non è in divisa, ma ha solo il fratino, chi mi assicura che sia un vigile? Caro Roberto, certo sei tenuto a fermarti, però sicuramente, perché il fratino, la pettorina, ha il sigillo ufficiale di Roma, sono vigili anche loro al 100%, però l'effetto è completamente diverso, soprattutto perché si confondono con gli ausiliari che hanno, come tutti sappiamo, funzioni molto molto più limitate. Poi dice un altro ascoltatore: vigilia a Roma, ennesima vergogna italiana che risate all'estero, lo credo anch'io. Poi mi pare che i vigili, scrivono su Facebook, non manchino di fantasia per trovare scuse a Roma. Va bene, questo è il tenore. Poi c'è un altro che, questo qui è un messaggio che fa una sintesi non male, questo ascoltatore che non si firma, dice la sintesi degli ospiti di oggi a effetto giorno, dice: quindi dagli ospiti di oggi abbiamo capito che se si formano le persone miracolosamente aumenta il numero di posti di lavoro disponibili e che solo a Roma i vigili ingrassano o dimagriscono. Non è male, la seconda si capisce bene, la prima in effetti l'economista Mussida ha fatto un'equivalenza molto automatica tra maggiore studio, maggiore formazione delle persone e maggiore occupazione, che è tutta effettivamente da dimostrare, messa così, perché sappiamo bene che ci sono tanti lavori che non richiedono necessariamente una laurea e che anzi spesso poi non trovano persone che occupino questi posti di lavoro. Va bene, complimenti all'ascoltatore per la sintesi di giornata, il momento del punto di Alberto Rioli. Il punto di Alberto Orioli. Torna allo standardo logoro dell'articolo 18. Lo vogliono reintrodurre il capo di Liberi e Uguali, Roberto Speranza, che è anche il ministro della Sanità, qualche 5 Stelle e anche una frangia del PD attenta alla CGIL, desiderosa di vendicarsi del Jobs Act renziano. L'occasione è l'attesa di una sentenza della Corte europea che deve pronunciarsi sulla legittimità delle tutele crescenti introdotte dal Jobs Act e degli indennizi monetari al posto dei reintegri obbligati previsti appunto dall'articolo 18 in caso di licenziamenti collettivi. In realtà diventa l'occasione per una compagine governativa slabbrata e priva di veri obiettivi condivisi per trovare qualche improvvisata convergenza. Ma al lavoro serve altro, investimenti innanzitutto. Per crearlo, perché oggi il problema è che quel lavoro è ancora troppo poco. I dati ci dicono che il tasso di occupazione cresce al record del 59,4%, ma è ancora ben lontano da quel 75% che è la media in Europa. Inutile difendere col filo spinato di diritti più presunti che veri un lavoro che non c'è. Semmai c'è un altro tema: come remunerare al meglio il lavoro che esiste, soprattutto aumentando le buste paga a chi è precario, accettando finalmente l'idea che l'occupazione flessibile deve essere pagata più di quella stabile. Tra le notizie più diffuse e raccontate di questi giorni, di queste settimane, ci sono quelle sugli grandi incendi che stanno avvenendo in Australia e, come è accaduto anche in passato, per esempio per l'Amazzonia, si parla molto anche di come vengono date queste notizie. I giornali ne parlano, i telegiornali ne parlano, perché da cosa dipendono questi incendi? Dal caldo? Dalla siccità? C'entrano per esempio i cambiamenti climatici oppure no? Ci sono i piromani in azione, perché sono state date le cifre, 183 arresti, poi in realtà poi si è scoperto che solo 25 di questi erano in realtà dei veri piromani. Allora ieri in un post su Facebook uno scienziato, un ricercatore, Giorgio Vacchiano, ha scritto un bel post nel quale ha cercato di spiegare e di rispondere a tutte queste domande. È proprio con noi, lo ringraziamo, Giorgio Vacchiano, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Ricercatore di selvicoltura e pianificazione forestale all'Università di Milano, nonché autore di un saggio, La resilienza del bosco, che credo sia in uscita proprio in queste settimane, giusto? Sì, è uscito a metà novembre, ecco. Fuori da poco. Benissimo, allora cominciamo a provare a rispondere a tutte queste domande. Io gliene faccio alcune, poi vediamo quanto tempo ci vuole per ogni risposta. Cosa sta bruciando e quanto è bruciato in Australia? Sono bruciati finora 8 milioni di ettari di territorio a partire dalla fine di ottobre. Siamo solo all'inizio dell'estate, quindi questa cifra è destinata senz'altro a salire, probabilmente a raddoppiare, perché l'estate australe durerà ancora almeno un mese e mezzo. Il tipo di vegetazione che brucia è sia il bush, cioè questa macchia come se fosse la nostra macchia mediterranea, quindi anche abbastanza densa, fatta di arbusti o alberi bassi, foreste di eucalipto e anche foreste temperate, diciamo simili alle nostre, che normalmente, contrariamente ai due tipi di vegetazione di cui ho parlato poco fa, invece non sono così abituati a vedere il fuoco. Si tratta comunque di foreste, diciamo di vegetazione tropicale e subtropicale, quindi diciamo anche di una ricchezza dal punto di vista del patrimonio, immagino, importante. Sì, ci sono in realtà, l'Australia è un continente vastissimo, non abbiamo davvero idea di quanto sia grande e contiene diversi climi e diversi ecosistemi. Si va dalle foreste tropicali nel Queensland fino a quelle temperate, Melbourne è a una latitudine comparabile alla nostra, quindi sono forse più foreste simili alle nostre, ecco, foreste di montagna, non immaginiamo solo le giungle tropicali. Ci sono poi alcuni endemismi, sia animali che vegetali, cioè specie che abitano solo in un territorio estremamente limitato. In particolare si è parlato di Kangaroo Island, l'isola dei canguri, dove esistono alcune piante, alcuni animali che sono effettivamente minacciati dagli incendi in corso a causa della distruzione del loro habitat, che purtroppo sta avvenendo. Che cosa provoca principalmente questi incendi, Vacchiano? Allora, dobbiamo distinguere due processi molto diversi: l'accensione delle fiamme e la loro propagazione. Sull'accensione possiamo senz'altro discutere, dobbiamo anche probabilmente aspettare un po' di tempo per avere le idee più chiare. Normalmente in Australia da un terzo a metà dei fuochi sono causati da fulmini, soprattutto nelle aree più remote e inaccessibili. C'è senz'altro anche una componente umana, soprattutto vicino alle aree urbanizzate. Non si tratta di piromani nel senso di folli, non si tratta neanche solo di incendiari criminali, molto spesso sono comunque anche azioni di colpa, quindi di distrazioni. Alcune delle persone arrestate o sanzionate di cui si parla in questi giorni, se si va a vedere, sono state sanzionate per aver acceso un barbecue, buttato una sigaretta senza rispettare il divieto di utilizzare fiamme libere. Che comportamenti sbagliati, scorretti, distrazioni, ma non volontà incendiaria. Benissimo. Non, sicuramente non esclusivamente. Questo per quanto riguarda l'accensione. Poi c'è il tema della propagazione, diceva. Questo è il tema fondamentale, perché se una fiamma che viene accesa non ha la possibilità di propagarsi, allora non dobbiamo preoccuparci così tanto dell'accensione. La propagazione su aree vaste in modo straordinario avviene a causa dello stato della vegetazione, cioè la vegetazione secca può condurre le fiamme molto facilmente, e più è secca più sono grossi gli elementi che possono bruciare e condurre le fiamme. Ma questa secchezza, questa diciamo siccità che c'è in queste foreste è causata dal caldo? Perché io ho letto per esempio qualcuno che diceva attenzione perché gli incendi ci sono anche in inverno, anzi addirittura sono più ci sono più numerosi incendi in inverno che in estate, giusto o è sbagliato? Allora, come dicevo prima, l'Australia è molto grande, quello che succede normalmente è che gli incendi seguono la stagionalità, seguono i periodi secchi anche a seconda dell'ecosistema che brucia. Ecosistemi fatti di erba hanno periodi di fuoco diversi da quelli fatti di alberi, ma la cosa straordinaria in questo momento invece è la simultaneità, cioè in aree dove normalmente gli incendi seguono un andamento stagionale, si alternano nell'anno, invece adesso abbiamo più fuochi molto vasti contemporaneamente. Questo dipende dal fatto che negli ultimi due anni c'è stata una siccità straordinaria, mai verificata prima in Australia. La pioggia si è ridotta del 40%, si sono toccati record di temperatura da 200 anni a questa parte in molte città, dove il cambiamento climatico ha avuto senz'altro un ruolo. Quindi lei, la prossima domanda che io le avrei fatto, il cambiamento climatico quanto c'entra? Lei, la sua risposta è un po' c'entra. Sì, c'entra abbastanza. Non c'entra tanto direttamente, ma c'entra perché le condizioni meteorologiche che portano siccità sull'Australia sono relative a grandi sistemi climatici, un po' come quando vediamo le previsioni del tempo da noi. In realtà dobbiamo allargare un po' lo sguardo e vedere che cosa ci arriva ad esempio dall'Oceano Atlantico, no? Le perturbazioni che arrivano, la stessa grandi circolazioni interessano l'emisfero australe e l'Australia in particolare. È dimostrato da diversi lavori scientifici, anche l'IPCC lo dice in tutti i suoi ultimi report, che il cambiamento climatico sta modificando queste circolazioni climatiche in modo da portare più spesso aria secca sull'Australia. Va bene. In tutti i report questo è stato scritto, l'ha scritto addirittura anche il governo australiano qualche anno fa, e quindi ce lo si aspettava. Chiarissimo, Giorgio Vacchiano, grazie per essere stato con noi in questa sede. Chiaramente non è possibile amplificare più di tanto certi ragionamenti, però la risposta sulla combinazione tra i cambiamenti climatici e gli incendi dal suo punto di vista è chiarissima. Grazie. Eccoci qua invece alle anticipazioni del programma sportivo di oggi. Carlo Genta, ciao Alessio. Cosa ci prepari per tutti i convocati? Fuochi di entusiasmo anche a Roma. Perché fuochi sono un po' meno incendiari. No, fuochi tra l'altro molto positivi e molto belli, perché sono quelli delle celebrazioni 120 anni dell'Aquila della Lazio. Parliamo di questo, avremo Bruno Giordano, è stato grande centravanti della Lazio, Giulio Cardone che è collega di Repubblica, laziale, laziologo, e di questo parliamo. E poi tennis, un grande del tennis italiano, Adriano Panatta, che ha scritto un libro molto, molto divertente, devo dire, Il tennis l'ha inventato il diavolo, hai capito? Ti facciamo spiegare perché. Bello. E poi ha fatto 9 gironi infernali mettendoci dentro ritratti di tennisti. Beh, Panatta è un bel personaggio, quindi insomma oggi traiettorie un po' laterali per tutti i convocati. Un po' laterali e molto romane. Molto giusto. Panatta pure romano, no? Panatta pure romano e romanista. È romanista, quindi bilanciamo giustamente questo bianco celeste un po' eccessivo, secondo me. Sì, lo so. Bernardi regia ride perché che lei, insomma, condivide la fede, credo, no? Romanista, certo. Sì, assolutamente. Va bene Carlo, grazie, appuntamento alle 14 con tutti i convocati. Naturalmente anche oggi abbiamo fatto il punto su questo. Tra poco invece torniamo e allarghiamo il quadro con i giornali internazionali. Giulia Crivelli.